Bonham, Ringo Starr, Steve Copeland. Beh, loro sono stati maestri della batteria. Amici, fidatevi, guardiamo in faccia la realtà. Non diventerete mai come loro. O meglio, non lo diventerete mai se vi ostinerete a voler suonare la batteria con le vostre braccia e con le vostre gambe. 1, 2, 3, 4. Pane, burro e rock and roll vi dà l'occasione di diventare batteristi rock con la bocca. Iscriviti al provino gratuito inviando un SMS al 335-100-7777 con la scritta Rock con la bocca sì. Non perdere l'occasione di riscrivere la storia del rock con la bocca. Ci occupavamo quest'oggi nel test attitudinale di una band violentissima, gli Slayer. Slayer, guardi anche come a volte il nome onomatopeutico? Mi ho tolto le parole di bocca. Onomatopeico. Sì, sembra uno schiaffo, no? Ma uno Slayer. Ti do uno Slayer, guarda. Nello specifico parlavamo di Raining Blood. Forse è vero che circola una leggenda metropolitana secondo la quale ascoltandola al contrario si sente il diavolo che parla? Non mi pare. Troppo sfruttata questa cosa. E allora forse dice che è ispirata a un viaggio allucinogeno che regalò a tutti i componenti del gruppo la sensazione che la pioggia che stava cadendo fosse rosso sangue. È quasi un riferimento al termine Pink Floyd, agli allucinogeni. Sì, con questo aggancio allo splatter. No, però non mi convince. Gioite voi che avete scelto la C, perché è vero, si dice che durante la guerra del Golfo i soldati americani utilizzassero tutti i brani di Raining Blood a un volume elevatissimo per stordire le milizie di Saddam Hussein, cosa che si dice anche di alcuni brani degli AC/DC come Highway to Hell. Sembra che i soldati americani utilizzino il rock and roll per spaventare i nemici. Interessante, questo è un utilizzo estremamente interessante, un utilizzo combattente e combattivo del rock and roll. Mi viene in mente Apocalypse Now di Francis Ford Coppola, laddove appunto The End, la fine cantata dai Doors, sì. Riecheggia, salta sempre fuori con lo sfondo di questi elicotteri da guerra, da battaglia, anzi da guerriglia nella giungla, che si elevano sullo sfondo. Maestro, grazie dell'immagine. Cinematografica, noterà, cinematografica. Pounding at the walls of lies, turning out for sanity, reaching back into a mind, I'll rise, dividing from the grave, showing new reality. What I certo che Frick a volte ti presenti che c'hai una faccia a te. Ma come? Eh no, ti vedo un po'. Un po' così. Saluto a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici. C'è che non ti vedono, ma così. Meno male. Si chiamano brufoli, foruncoli. Io non ce li ho da quando ho 14 anni. Sì, io per fortuna sì, ma ho imparato a spremere. Sì, chissà. Oh, godo tantissimo. Anzi, aia! Confesserò adesso, visto che non ci ascolta nessuno. L'ha sentito il campanello, Frick? Ah. Oddio, il campanello insistente. Oddio, Spadino, oddio, non dirmi oddio, che è lui, oddio. Non dirmi che è il portinaio Peretti. È lui. Pensandoci, ma sì. Si dice portinaio o portiere? No, non mi interessa, il problema è che Peretti suona e bisogna farlo. Buongiorno, signor Peretti! Buongiorno. Ragazzi, ma come sta? No, noi stiamo benissimo. Salve, grazie. Stiamo bene, grazie. Forse Frick è un po' sbattutello, ma l'ha mangiato pesante. Lui viene da una terra dove si mangia veramente bene. Sì, la Romagna. Cucina heavy metal. Un giorno dovrebbe venire a trovarci. Oh, ma mi farebbe. Nella villetta Antoni. Ma sarebbe troppo. Gnocco fritto che non se ne mangia. Lasagne fritte. E vabbè, è passato a trovarci anche quest'oggi, sì, via. Sì, sono passato perché, sapete, io ci tengo moltissimo a questo condominio. Guardi, Peretti, io passo le giornate impeccabile. Non manca giorno che io entro in portineria e non mi accorga del piacere. Fa piacere. E mi fa piacere che a lei faccia piacere. Sì, insisto, impeccabile. Sì, lei è veramente impeccabile. Integerrimo nella polizia. Io tutto i miei prodottini, io passo tutta la giornata, ogni cosa c'è il suo prodottino. Ad esempio, nell'ascensore c'è un prodottino apposta per rendere quello specchio dell'ascensore assolutamente pulito. Chissà le ditate che ci lasciano su quella roba lì, perché qualcuno li tocca quegli specchi, sai? I bambini. Allora, questo non è il problema grosso. La signora del quarto piano. C'è i bimbi che toccano, io l'ho vista, signor Peretti. Bimbi, è quella lì che è sporca. I bimbi le hanno già spaccato le dentine più volte. Sì. Ma c'è una cosa che mi ha dato parecchio fastidio questa mattina. Che dica. Niente di grave, ragazzi, per l'amor del cielo. Però sapete che ci tengo molto a queste cose. Sì. Cos'è successo? È successo che ho trovato una piccola macchiolina sospetta su un vetro. No. Sì. Di cosa? E mi ha dato un pochino fastidio. Si tratta di una piccola, diciamo, pus. Come pus? Si può dire in televisione? Non siamo in televisione, signor Peretti, siamo in radio. Rock FM, ma pus, radio. Sa chi è? Quello è l'ottantenne dell'undicesimo piano, che quello c'ha i brufi, che lo vedi, è lui, Sì, ha uno È stato lui. Un problema. Poverino, è una personcina che veramente soffre molto. Ha un problema epidermico. Che poi è una cosa di sudorazione, non è colpa sua, lo perdono. Ma non è stato lui. Come non è stato lui? Non è stato lui. È stato, mi dispiace dirlo, il dottor Antoni. No, ma io posso garantire incredibile. Che Frick, se c'è una cosa che non sopporta, è spremersi i brufoli, vero Frick? Infatti è una cosa che detesto fare e detesto vedere fare. E poi non mi dica che ha fatto ancora il test del DNA sul pus, che schifo. No, quello non è stato necessario perché nell'ascensore c'è una microtelecamera e ho ripreso tutto e ho la videocassetta qui con Frick Anthony che si sbrufola davanti allo specchio. Ma lei, scusi, ma vede quello che c'è nell'ascensore? Lei ha uno schermo per vedere quello che c'è nell'ascensore? Io ho 412 schermi, io vedo tutto quello che fate qua nel condominio. Ma per la vostra sicurezza. Per la vostra sicurezza. E mi è capitato di vedere il dottor Anthony fare questa cosa davanti allo specchio. Se lo rifai, ti imbenzino e ti incendio, così la prossima volta che premiano i Fantastici 4 tu ti prendi l'Oscar per la torcia umana. Grazie ragazzi, scusate se vi ho disturbato. Un saluto a tutti i telespettatori. Arrivederci. Noi è radio, sono un radioaspettatore. Salve. Grazie. Non sbatta la porta. Sì. Signor Peretti. Anche tu, ma che ti spremi i brufoli sull'ascensore? Ho capito, io avrò sbagliato, ma questo è inquietante. Ma poi, portinaio o portiere? Secondo me, portiere più nobile. Thank you. myself in a strange situation, and I don't know how. What seems to be an infatuation is so different now. I can't get by if we're not together. Girl, I want you now and forever, close to me. I'm longing for the time, I'm longing for the day, hoping that you will promise to be mine and never go away. I don't wanna live without. But there's no explanation for the way I feel. I know I've reached the right destination, and I know it's real. I'm lost. Sì, va bene, qua si prosegue con il rock and roll, con la buona musica di Rock FM, ma diciamocelo, siamo ormai al 18 di gennaio e noi questo 2008, l'anno della svolta, in realtà lo avevamo iniziato con una radioascoltatrice che decise di smettere di fumare proprio nel primo appuntamento in diretta del 2008. Si chiama Marina, è un po' che non la sentiamo, ma eccola di nuovo in collegamento con noi da Genova. Ciao Marina! Ciao a tutti. Sei tornata al lavoro? Sono tornata al lavoro stamattina, sono in una riunione sindacale. Ah, e in questo momento sono in una pausa. Complimenti, non ti fai mancare proprio niente. No. Allora, la domanda è sempre la stessa: ti sei accesa una sigaretta? Assolutamente no. Ma guarda, assolutamente no. Guarda. E devo dirti che sempre più spesso, almeno molto spesso, mi capita di non ricordarmelo più. Ma guarda, diciamo che ormai cammina con le sue gambe. Sì, Speriamo che sia così per sempre, perché c'ho tutti i menagrammo che mi stanno attaccati al sedere a dire me, ma poi tanto riprendi, sì. Faccio le forche. Tra l'altro, in una riunione sindacale, riuscire a non farsi venire voglia di fumare una sigaretta deve essere più dura, no? Guarda, una riunione pesantissima, ecco. Tra l'altro, perché si tratta dei nostri contratti, quindi ecco. Vabbè, la gestione è una riunione pesantissima. E non si può fumare comunque, perché siamo in riunione, certo. Quindi nessuno oserebbe neanche accendersela, di quelli fumatori, però ecco, diciamo che comunque probabilmente è vero che si tieni duro, è vero per forza, se no nessuno avrebbe mai smesso, poi capita nello scorrere della giornata che non, niente, ti accorgi, oddio, non ci ho più pensato, e ti fa, niente, ti dà la forza per sopperire a quegli attimi di bisogno che comunque vengono, perché comunque... Certo, sì. Senti, quindi possiamo affrontare il weekend tranquilli che Marina non è tornata a fumare. Buono. No, ragazzi, guarda, questa volta veramente, se questa cosa è la volta buona. Fondo, ho chiuso, perché tanto non ho più l'età. Esatto. Per 47 anni ho fumato, quindi ho fumato abbastanza. Marina, restiamo. Ci sentiamo più avanti, noi ti teniamo sotto controllo, eh. Noi qua a Genova aspettiamo, lo so che è il solito discorso. È fatto, ritrito, però sappi, ieri sera. Ti dico in codice, ci sto lavorando, capisci? Bella, va bene. Sarà bellissimo. Sarà bellissimo. Buona giornata, buon proseguimento, grazie, di riunione sindacale. Ciao. Grazie. E voi restate lì, tra pochissimo, come promesso, l'appuntamento con il Led Zeppelin col Kazoo. Imperdibili! Avviso ai radioascoltatori più sensibili, rubrica di quelle che fanno venire il prurito ai puristi. Sì, rubrica da prendere con molte molle. Ce la siamo presa con i Beatles, cantandoli in italiano. Abbiamo mostrato nel corso di questi mesi dei tape, delle registrazioni compromettenti di alcuni artisti, e qualche volta ci è capitato di suonare i Led Zeppelin col casù, perché i Led Zeppelin possono essere interpretati in molti modi. Esatto, noi siamo pronti a interpretare quest'oggi un classico del repertorio Led Zeppelin, non con chitarra, basso, batteria e voce come potrebbe fare chiunque, bensì interamente col casù. Lei se la sente, maestro? Naturalmente no. Chiamiamo nello studio anche Isaac Rizzi dalla redazione per aiutarci con la terza. Io faccio la chitarra alta, Isaac fai la chitarra bassa, sì. Rick, lei fa la linea vocale. Sì. Il brano scelto quest'oggi dovrebbe essere Immigrant Song. Cercherò di sbagliare ad ogni rima e ci riuscirò, vedrà, ad ogni riga sbaglierò. Era per accordarsi. Ok? Ci dà lei il 4, maestro? In diretta sulle frequenze di Rock FM, Immigrant Song col casù. Non l'avevate mai sentita così. E mai la sentirete. 1, 2, 3, 4. Un capolavoro di originalità. Soddisfatto? Vabbè, tutto si può migliorare, però siamo già ad altissimi livelli, eh. Complimenti. Congratulazioni. Ed eccoci allora giunti alla fine di questa puntata 164. Buon weekend a tutti voi là fuori. Sì, è proprio la fine. Ci tengo a ricordare ai puristi: non arrabbiatevi per i Led Zeppelin col Kazoo, eh. È una cosa goliardica, così si fa per ridere, eh. E so che poi insultateci pure comunque al 335 100 7777, tanto noi ce ne stiamo per andare. Ricordo invece a quei folli che fossero interessati al riascolto di Immigrant Song in questa nuova meravigliosa versione col Kazoo, la troverete tra qualche minuto su myspace.com/paneburrofm, il nostro contatto, il nostro spazio su internet. È andata, via, archiviamo la puntata 164 di Pane, Burro e Rock and Roll. Pane, burro e rock and roll. Vi auguro il migliore dei weekend possibili, la tua colazione rock, ovviamente se sfasciate tutto però, eh. Pane, burro e rock. Scherzo, si fa sempre per scherzare, eh. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Il saluto vi arriva da parte della squadra di Pane, Burro e Rock and Roll, a nome dell'Ariele, di Spadino, di Roberto Fricantoni, della nostra redazione, di Isacco Rizzi. Vi lascio nelle mani di Marco Garavelli e ripeto, il migliore dei weekend possibili. Noi ci si risente lunedì mattina, come ogni giorno, in diretta dalle 7 alle 9 per quella che sarà la puntata 165 di Pane, Burro e Rock and Roll. Grazie per essere stati con noi, buon weekend, a lunedì prossimo, ciao ciao ciao ciao.